Capitolo 11. La sala da pranzo della signorina Minerva era in stile con il resto della casa. C'era un lampadario di ricercata fattura, sopra il camino uno specchio dalla cornice dorata, di fattura altrettanto ricercata, e una tavola apparecchiata elegantemente, composata d'argento, bicchiere di cristallo e finissimo vasellame Crown Derby. La cena, servita da una cameriera anziana e arcigna, era abbondante ed eccellente, ed Anne vi fece onore con il suo sano appetito di persona giovane. La signorina Minerva restò in silenzio per qualche tempo e Anne non osò dire nulla, temendo di provocare un'altra valanga di tragedie. Un lucido gattone nero entrò nella sala e andò a fermarsi con un rauco miagolio accanto alla signorina Minerva. Lei versò della crema in un piattino e glielo mise davanti. Questo gesto rese più umana agli occhi di Anne l'ultima dei Tom Gallon, privandola in parte dell'aura di sacro rispetto che la circondava. Prenda ancora qualche pesca, mia cara. Lei non ha mangiato decisamente niente. Oh, signorina Tom Gallon, ho gradito. La mensa dei Tom Gallon si è sempre fatta onore, disse con compiacimento la signorina Minerva. La zia Sofia faceva il pan di Spagna più buono che abbia mai mangiato. L'unica persona che a mio padre non piaceva avere in casa era sua sorella Mary, perché era di poco appetito. Piluccava e sbocconcellava, per lui era come un'offesa personale. Papà era un uomo inflessibile, non perdonò mai mio fratello Richard perché si era sposato contro il suo volere. Gli ordinò di uscire di casa e non gli permise mai più di rientrarvi. Papà recitava sempre il Padre nostro al mattino, quando ci riunivamo per la preghiera, ma dopo l'atto di disobbedienza di Richard, tralasciava sempre la frase «Rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori». Mi sembra di rivederlo inginocchiato lì, disse in tono assorto la signorina Minerva, mentre recita la preghiera incompleta. Dopo cena andarono nel più piccolo dei tre soggiorni, che era tuttavia piuttosto grande e tetro, e trascorsero la serata davanti all'enorme camino in cui ardeva un fuoco allegro e ristoratore. Anne lavorò all'uncinetto degli elaborati centrini e la signorina Minerva lavorò a maglia, sostenendo intanto un virtuale monologo imperniato sulla colorita storia dei Tom Gallon. C'era quell'antenata che aveva detto una bugia al marito e lui non le aveva mai più creduto, e quell'altra che si era preparata gli abiti da lutto pensando che il marito morisse, e poi invece con suo grande disappunto lui era guarito. Oscar Tom Gallon era morto e risuscitato, ma nessuno lo voleva più, mia cara. Ecco la tragedia. Claude Tom Gallon aveva sparato al figlio per errore. Edgar Tom Gallon aveva sbagliato medicina al buio e, come logico, era morto. David Tom Gallon aveva giurato alla moglie gelosa sul letto di morte che non si sarebbe risposato, e invece si era risposato e si diceva che fosse visitato dal fantasma della numero uno. Che occhi aveva, mia cara! Ti attraversava con lo sguardo, come se fissasse qualcosa nel vuoto. Si aveva paura di stargli accanto. Ma il fantasma lo vedeva solo lui, e forse era solo una questione di cattiva coscienza. Credi ai fantasmi, mia cara? Io, naturalmente, abbiamo un fantasma vero, sa, nell'ala nord. Una splendida ragazza, mia prozia Ethel, che morì nel fiore degli anni, e dire che era tanto attaccata alla vita, avrebbe dovuto sposarsi presto. Questa è una casa piena di ricordi tragici. Signorina Tom Gallon, ma è mai successo niente di bello o di allegro in questa casa? Chiese Anne, riuscendo a terminare la frase solo perché la signorina Minerva aveva dovuto interrompersi per soffiarsi il naso. No, credo di sì, disse la signorina Minerva, come se le seccasse ammetterlo. Sì, certo, ci si divertiva qui, quando ero giovane. Ho sentito dire che lei scrive un libro sulla gente di Summerside, mia cara. Oh no, non c'è un briciolo di verità. Oh, la signorina Minerva sembrò delusa. Beh, in caso intendesse farlo, può riportare le storie della nostra famiglia, cambiando il nome, magari. E ora che ne dice di una partita di parchesi? Oh, mi dispiace, ma ora devo proprio andare. Oh, mia cara, non può andare a casa stasera. Piove a dirotto e c'è un vento. Non tengo più la carrozza. Non mi servirebbe. E lei non può andare a piedi con questo diluvio. È mezzo miglio, non due passi. Sarà mia ospite per questa notte. Anne non era entusiasta all'idea di trascorrere una notte a Tom Gallon House, ma non voleva neppure affrontare la tempesta di marzo per rientrare a Windy Willows, così fecero una partita a parchesi, assorbì tanto la signorina Minerva da farle dimenticare le tragedie del passato, e consumarono uno spuntino prima di andare a letto. Mangiarono pane abbrustolito alla cannella e bevvero cioccolata in antiche tazzine cifrate, straordinariamente belle e sottili. Infine, la signorina Minerva l'accompagnò in una delle molte camere per ospiti, ed Anne fu lieta di vedere che non era quella dove era morta d'infarto la sorella della signorina Minerva. «Questa è la camera di zia Annabella», disse la signorina Minerva, accendendo le candele nei candelieri d'argento ai lati di una graziosa toeletta verde e spegnendo il gas. Una sera Matthew Tom Gallon aveva soffiato sul gas per spegnerlo e così era uscito dalla scena terrena. Era la più bella delle Tom Gallon. Sopra lo specchio c'è il suo ritratto. Ha notato che bocca altera aveva? Quel copriletto patchwork di vari colori l'ha fatto lei. Spero che sarà a suo agio, mia cara. Mary ha dato aria alle lenzuola e ha messo due mattoni nel letto per scaldarlo. Ha dato aria anche a questa camicia da notte, disse indicando un ampio indumento di flanella dal forte odore di naftalina appoggiato allo schienale di una sedia. Spero che le andrà bene. L'ultima a metterle è stata la povera mamma sul letto di morte. Oh, quasi dimenticavo di dirglielo, annunciò dalla soglia la signorina Minerva. Zia Annabella si impiccò nel guardaroba. Già da un po' aveva le malinconie e quando non la invitarono a un matrimonio a cui, secondo lei, la sua presenza era necessaria, non resse il colpo. A zia Annabella piaceva essere sempre alla ribalta. Le auguro buon riposo, mia cara. Anna dubitava di poter dormire. A un tratto percepì qualcosa di strano e di sinistro in quella stanza, qualcosa di ostile. Ma non c'è sempre qualcosa di strano in una camera abitata per molte generazioni? E lì ha dimorato la morte, e lì l'amore si è tinto di rosa, lì sono nate nuove vite, e lì si sono consumate passioni e speranze, e ora ne restano i fantasmi. E quella casa un po' di paura la incuteva davvero, piena com'era di fantasmi, di antichi odi e antiche pene, di iniquità mai venute alla luce, che ancora ne ammorbavano gli angoli più reconditi. Troppe donne dovevano aver pianto lì dentro. Il gemito del vento tra gli abeti rossi del giardino aveva un che di soprannaturale. Per un attimo Anna fu tentata di fuggire a costo di affrontare la tempesta. Poi, con uno sforzo di volontà, riacquistò il controllo di se stessa e fece leva sul suo buon senso. Se lì, in tempi ormai remoti, erano accadute cose tragiche e terribili, dovevano esservi accadute anche cose belle e divertenti. Le ragazze graziose e allegre avevano danzato e si erano scambiate i loro dolci segreti. Lì erano nati bambini paffuti e vi erano stati balli, nozze, musica, risate. L'antenata del pan di Spagna doveva essere una donna più che normale e il reietto Richard un innamorato fedele. Cercherò di pensare a queste cose e non alle altre e andrò a dormire. Disse a se stessa Anna. Questo copriletto di ritagli multicolori finirà per farmi venire il mal di mare, ma questa è pur sempre una camera per ospiti. Non dimenticherò mai quale emozione mi dava dormire nella camera per ospiti quando mi fermavo per la notte in casa di qualcuno. Anna sciolse i capelli e li spazzolò sotto lo sguardo di Annabella Tom Gallon. Da cui volto spiravano orgoglio, vanità e il tocco di arroganza della vera bellezza. Anna fissò lo specchio con la pelle d'oca. Quale volto vi avrebbe visto riflesso? Forse quello delle tragiche e infelici figure femminili che vi si erano specchiate prima di lei? Aprì coraggiosamente l'anta del guardaroba, quasi aspettandosi che ne ruzzolasse fuori una mezza dozzina di scheletri, e appese l'abito. Si sedette con calma su una sedia rigida che sembrava respingere con sdegno ogni contatto umano e si tolse le scarpe. Poi indossò la camicia da notte di flanella, spense le candele ed entrò nel letto che i mattoni di Mary avevano deliziosamente riscaldato. La pioggia scrosciava sui vetri e il vento sibilava attorno alla casa, impedendole di prender sonno, ma infine si assopì, dimenticando le tragedie di Tom Gallon. Risvegliandosi, vide i rami scuri degli abeti stagliarsi contro il cielo rosso dell'alba. Mi ha fatto piacere averla qui, mia cara, disse la signorina Minerva quando Hans si congedò dopo la prima colazione. Ci siamo tenute buona compagnia, vero? Eppure vivo sola da tanto tempo che non so quasi più fare conversazione. E non è il caso che le dica quanto mi solleva conoscere una ragazza simpatica e naturale in quest'epoca di ostentazione. Ieri non gliel'ho detto, ma era il mio compleanno e un po' di gioventù in casa mi ha messo allegria. Ora non c'è più nessuno a festeggiare con me il compleanno, disse la signorina Minerva accennando un sospiro. E pensare che una volta eravamo in tanti. Beh, si sarà sorbita una triste litania, disse zia Cetti quella sera. Ma tutto quello che mi ha raccontato la signorina Minerva è successo davvero, zia Cetti? Beh, sembra strano, ma è così, disse zia Cetti. Sarebbe da non crederci, signorina Shirley, ma ai Tom Gallon non sono successe davvero un mucchio di cose tremende. Non più di quante ne succedano a una famiglia numerosa nel corso di 6 generazioni, disse zia Kate. Oh, di più. Sembra proprio che avessero una maledizione. Tanti di loro sono morti di morte improvvisa o violenta. Certo, hanno un rametto di pazzia, questo lo sanno tutti, ed è già una maledizione. So la storia, non ne ricordo i particolari, di un capomastro che maledisse la casa, qualcosa a che fare con il contratto. Il vecchio Paul Tom Gallon lo costrinse a rispettarlo e lui si rovinò. Gli costò molto di più di quanto aveva previsto. La signorina Minerva sembra tenerci a quella maledizione, disse Ann. Poveretta, non le resta altro, disse Rebecca Dew. Ann sorrise nel sentir definire poveretta l'aristocratica signorina Minerva. Ma andò nella torretta e scrisse a Gilbert. Pensavo che Tom Gallon House fosse una vecchia casa sonnacchiosa dove non succedeva niente. Forse ora non succede niente, ma in passato ne sono successe delle belle. La piccola Elizabeth parla sempre del domani, ma la casa avita dei Tom Gallon è l'ieri. Sono contenta di non vivere nello ieri, contenta che il domani mi sia amico. Senza dubbio la signorina Minerva ha una predilezione per la teatralità e si pasce delle sue tragedie. Per lei sono quel che il marito e i figli sono per le altre donne. Ma Gilbert, caro, anche se diventeremo vecchissimi, cerchiamo di non vederci solo il lato tragico della vita, vuoi? E tantomeno di crogiolarci nelle disgrazie. Non mi piace l'idea di una casa di 120 anni e spero che la casa dei nostri sogni, quando la troveremo, sia nuova e sgombra da fantasmi e tradizioni di famiglia, o che perlomeno sia stata abitata da gente sufficientemente felice. Non dimenticherò mai la notte passata a Tom Gallon House, e per la prima volta in vita mia ho trovato qualcuno che mi batte nel parlare. Capitolo 12. La piccola Elizabeth Grayson era nata piena di fiducia nel futuro. Il fatto che le sue speranze si realizzassero raramente sotto lo sguardo vigile della nonna e della donna non riusciva a scalfire questa sua fiducia. Prima o poi le cose dovevano accadere, e se non accadevano oggi, sarebbero accadute domani, quando la signorina Shirley venne a vivere a Windy Willows. Elizabeth sentì che il domani era davvero molto vicino, e il soggiorno a Green Gables ne fu un anticipo, ma alla fine di giugno del terzo e ultimo anno della signorina Shirley al liceo di Summerside, e il cuore della piccola Elizabeth era sceso negli stivaletti con i bottoncini che la nonna le faceva sempre indossare. A scuola molte bambine le invidiavano quei bei stivaletti di pelle con i bottoncini, ma la piccola Elizabeth non sapeva che farsene degli stivaletti con i bottoncini se poi non poteva percorrere la strada verso la libertà. E ora la sua adorata signorina Shirley stava per andar via per sempre. Alla fine di giugno avrebbe lasciato Summerside per tornare al paradiso di Green Gables. La piccola Elizabeth era disperata e a nulla serviva la promessa della signorina Shirley di portarla con sé a Green Gables l'estate prima di sposarsi. La piccola Elizabeth intuiva che la nonna questa volta non l'avrebbe lasciata andare. La piccola Elizabeth sapeva che la nonna non aveva mai visto di buon occhio il suo attaccamento alla signorina Shirley. Per me è la fine, signorina Shirley, disse Elizabeth tra i singhiozzi. Te Tesoro, speriamo invece che sia solo un inizio, disse Anna allegramente, ma era avvilita anche lei. Il padre della piccola Elizabeth non si era fatto vivo, o non aveva ricevuto la lettera, o non se n'era minimamente curato. E se non se n'era curato, quale sarebbe stato il futuro di Elizabeth? La situazione era già grave per una bambina, ma in seguito quelle due vecchie la faranno morire a furia di comandare la bacchetta, aveva detto Rebecca Dew. Anna riteneva l'osservazione veritiera, anche se poco elegante. Elizabeth sapeva di essere comandata a bacchetta e le seccava particolarmente di essere comandata a bacchetta dalla donna. Non lo gradiva nemmeno dalla nonna, ma bisognava ammettere che una nonna qualche diritto di comandare a bacchetta una nipote doveva avercelo. Ma quale diritto aveva la donna? Elizabeth moriva dalla voglia di chiederglielo. E glielo avrebbe chiesto nel domani. Che soddisfazione vedere che faccia avrebbe fatto. La nonna non lasciava mai andare la piccola Elizabeth a fare delle passeggiate da sola perché, diceva, aveva paura degli zingari. Avevano rapito un bambino 40 anni prima. Ora gli zingari venivano raramente sull'isola e la piccola Elizabeth capiva che era solo una scusa. Ma che gliene importava la nonna se la rapivano? Elizabeth sapeva che la nonna e la donna non le volevano un briciolo di bene. Parlando di lei, se potevano, evitavano di chiamarla per nome. Dicevano sempre la bambina. Elizabeth detestava essere chiamata la bambina. Sembrava che parlassero del cane o del gatto, ammesso che ce ne fossero in casa. Ma quando Elizabeth si era arrischiata a protestare, la nonna si era arrabbiata e la piccola Elizabeth era stata punita per la sua impertinenza sotto lo sguardo compiaciuto della donna. Spesso si chiedeva perché la donna la odiasse tanto, che motivi aveva di odiarla se era ancora tanto piccola, che aveva fatto per meritare tanto odio. Elisabeth non sapeva che la madre, morta nel dare alla luce lei, era stata la prediletta di quella vecchia arcigna, e anche se l'avesse saputo, non avrebbe capito i complicati meccanismi di compensazione dell'amore frustrato. La piccola Elisabeth detestava la tetra e sontuosa Evergreens, nonostante vi avesse vissuto fin dalla nascita. Lì ogni cosa le era estranea, ma con l'arrivo della signorina Shirley a Windy Willows tutto era cambiato, come per incanto. Da allora la piccola Elizabeth viveva in un mondo di sogno. Per fortuna la nonna e la donna non potevano impedirle di guardarsi attorno, anche se Elizabeth sapeva che potendo l'avrebbero fatto. Le brevi passeggiate sul magico nastro rosso della strada del porto, che troppo raramente le era consentito compiere con la signorina Shirley, erano i momenti più importanti della sua grigia esistenza. Allora amava ogni cosa: il faro lontano, stranamente dipinto a righe bianche e rosse, la lontana costa azzurra, le piccole onde azzurro-argento, le luci del porto che occhieggiavano nell'oscurità viola dell'imbrunire. Tutto questo le dava una gioia che era quasi dolore. E la baia, con le sue isolette brumose e i suoi tramonti infuocati, Elizabeth saliva in soffitta e, affacciata a una finestra, ammirava il tramonto tra le cime degli alberi e le navi che salpavano al sorgere della luna, navi che ritornavano e navi che non ritornavano mai. Elizabeth sognava di salire a bordo per un viaggio verso l'isola della felicità. Le navi che non tornavano più restavano laggiù, dove era sempre domani. Quella misteriosa strada rossa non finiva mai e lei fremeva dalla voglia di percorrerla tutta. Dove portava? A volte Elizabeth sentiva di non poter resistere alla curiosità. Nel domani, quello vero, si sarebbe avventurata fino alla fine e forse avrebbe trovato un'isola tutta sua, dove vivere con la signorina Shirley, lontana dalla nonna e dalla donna. Loro non potevano andarci, odiavano l'acqua e niente al mondo le avrebbe convinte a salire su una barca. Alla piccola Elizabeth piaceva immaginare la scena. Lei, sulla sua isola, sbeffeggiava le due donne che la dardeggiavano invano con lo sguardo dalla terraferma. Qui siamo nel domani, le avrebbe schernite. Non potete più prendermi. Voi siete ancora nell'oggi. Che spasso! Che soddisfazione vedere la faccia della donna! Poi, una sera alla fine di giugno, accadde una cosa straordinaria. La signorina Shirley aveva detto alla signora Campbell che l'indomani si sarebbe recata per una commissione a Flying Cloud. Doveva vedere una certa signora Thompson incaricata di organizzare il gruppo responsabile dei tè e dei pranzi di beneficenza del comitato femminile. Non le dispiaceva lasciare la piccola Elizabeth andare con lei? La nonna aveva consentito, anche se come al solito a denti stretti. Elizabeth era persino stupita che avesse acconsentito, non essendo al corrente del terrore che esercitava sui Pringle la piccola informazione di cui Anne era in possesso. Scenderemo fino alla baia, quando mi sarò liberata dal mio impegno a Flying Cloud, bisbigliò Anne. La piccola Elizabeth andò a dormire, emozionatissima, certa di non riuscire a chiudere occhio. Infine avrebbe risposto al richiamo della strada dei suoi sogni. L'emozione non le impedì però di compiere coscienziosamente il rito serale. Piegò gli abiti, si lavò i denti e si spazzolò i capelli d'oro. Non era scontenta dei propri capelli, ma non erano belli come quelli della signorina Shirley, con quel color biondo rame, le onde e i ricciolini attorno alle orecchie. La piccola Elizabeth avrebbe dato qualunque cosa per avere capelli come quelli della signorina Shirley. Prima di andare a letto, la piccola Elizabeth aprì un cassetto dell'alto, antiquato e lucido come nero e prese una fotografia accuratamente nascosta sotto una pila di fazzoletti. Era una fotografia della signorina Shirley, ritagliata da un numero speciale del Weekly Courier, in cui appariva con i docenti del liceo. Buonanotte, cara signorina Shirley. Baciò l'immagine e la rimise nel nascondiglio. Poi salì nel letto e si rannicchiò sotto le coperte perché la notte di giugno era fresca e la brezza che spirava dal porto penetrante. Era, in effetti, qualcosa di più di una brezza. Soffiava, sbatacchiava, scrollava e rimbombava. A Elizabeth pareva di vedere le onde rincorrersi nelle acque della baia, alla luce della luna. Che spasso poter fuggire laggiù sotto i raggi della luna! Ma erano cose che si potevano fare solo nel domani. Dov'era Flying Cloud? Che nome! Sembrava uscito dal domani. Era terribile essere così vicina al domani e non poterci entrare. E se invece domani il vento avesse portato acqua? Oh, Elizabeth sapeva che non le avrebbero consentito di uscire con la pioggia. Si mise a sedere sul letto e giunse le mani. Oh, Dio, non per impicciarmi, ma domani non sarebbe possibile avere bel tempo. Per favore. L'indomani, il pomeriggio, era splendido. Elizabeth si sentì liberata da catene invisibili quando si allontanò con la signorina Shirley da quella tetra casa. Aspirò una boccata di libertà, anche se la donna stava osservandole con il muso lungo dietro il vetro rosso del portone d'ingresso. Era un incanto passeggiare in quel mondo stupendo. Adorava stare sola con la signorina Shirley. Che avrebbe fatto dopo la partenza della sua amata? Ma la piccola Elizabeth rimosse con decisione questo pensiero. Non doveva rovinarle la giornata. Forse, un forse grande, grande, oggi lei e la signorina Shirley sarebbero entrate nel domani e allora non si sarebbero separate mai più. La piccola voleva avvicinarsi pian piano a quell'azzurro ai confini del mondo, bearsi della bellezza che la circondava. Ogni curva e ogni svolta della strada rivelavano nuovi incanti, presentando sempre nuove curve e nuove svolte lungo il corso tortuoso di un ruscello che sembrava uscito dal nulla. Ai lati c'erano campi di ranuncoli e trifoglio riecheggianti del ronzio delle api. Di quando in quando si trovavano a camminare su un bianco tappeto di margherite. In lontananza lo stretto si apriva ai loro sguardi con le sue onde dalla cresta argentea. La baia sembrava una distesa di seta marezzata. Elizabeth preferiva questo aspetto a quello più usuale del raso celeste. Bevevano il vento a grandi sorsate. Era un vento soave. Le accompagnava con il suo alito, quasi volesse indurle a proseguire. Non è bello camminare così, con il vento, disse Elizabeth. Un venticello amabile e profumato, disse Anne, più a se stessa che alla piccola. È così che pensavo fosse il Mistral. La parola Mistral dà questa idea. Che delusione quando ho scoperto che era un vento forte e violento. Elizabeth non comprese queste parole, non aveva mai sentito parlare del Mistral, ma le bastava udire la voce della sua cara amica. Anche il cielo sembrava felice. Un marinaio con gli orecchini d'oro, proprio la persona che ci si aspetterebbe di trovare nel domani, sorrise incrociandole. Elisabeth pensò al versetto della Bibbia imparato alla scuola di catechismo. Le colline esultano all'intorno. Chi l'aveva scritto? Aveva mai visto colline azzurre come quelle che dominavano la baia? Credo che questa strada porti dritti dritti alla casa di Dio, disse in tono sognante. Forse, disse Anne, credo che tutte le strade portino lì, piccola Elizabeth. Ora svoltiamo, dobbiamo andare su quell'isola. Quella è Flying Cloud. Flying Cloud era un'isoletta stretta e lunga, a circa un quarto di miglio dalla costa. C'erano degli alberi e una casa. La piccola Elizabeth aveva sempre sognato di possedere un'isola tutta sua, con un'insenatura di sabbia argentea. Come ci si arriva? Su questa barca, disse la signorina Shirley prendendo i remi di una barchetta ormeggiata a un albero proteso sull'acqua. La signorina Shirley sapeva remare, ma c'era qualcosa che non sapesse fare. L'isola, una volta raggiunta, si dimostrò un luogo pieno di fascino dove anche l'impossibile avrebbe potuto accadere. Doveva per forza appartenere al domani. Le isole di quel genere si trovavano solo nel domani. Non avevano nulla da spartire con il monotono oggi. La camerierina che venne ad aprire disse ad Anne che la signora Thompson era andata all'altro capo dell'isola per cogliere fragole selvatiche. Pensare, un'isola dove crescevano le fragole selvatiche. Anne andò alla ricerca della signora Thompson, ma prima chiese se poteva lasciare la piccola Elizabeth ad attendere nel soggiorno. La ragazzina sembrava piuttosto stanca dopo la lunga passeggiata, per lei tanto fuori del comune, e aveva bisogno di riposo. Elizabeth non era dello stesso avviso, naturalmente, ma ogni desiderio della signorina Shirley era legge per lei. Era una bella stanza, piena di fiori e arieggiata dalle brezze del mare aperto. A Elizabeth piacque lo specchio sopra il camino, in cui la stanza si rifletteva così nitidamente e il panorama della baia, delle colline e dello stretto che si scorgeva dalla finestra spalancata. A un tratto, un uomo si presentò sulla porta. Elizabeth provò un attimo di sgomento e di terrore. Era uno zingaro. Non corrispondeva all'idea che lei si era fatta degli zingari, però zingari non ne aveva mai visti. Allora Elizabeth ebbe un rapido lampo di intuizione e decise che non le sarebbe dispiaciuto se l'avesse rapita. Le andavano a genio i suoi allegri occhi nocciola, i mossi capelli castani, il mento forte e il sorriso. Già, stava sorridendo. E tu chi sei? Chiese. Io sono io, balbettò Elizabeth confusa. Oh, certo, tu sei spuntata dal mare, comparsa dalle dune. Tu non hai un nome da comune mortale. Elizabeth comprese che stava prendendola un po' in giro, ma non le importava, anzi le piaceva. Rispose tuttavia con un certo sossiego. Mi chiamo Elizabeth Grayson. Cadde il silenzio, un silenzio molto strano. L'uomo la guardò un attimo senza dire nulla. Poi le chiese gentilmente di sedersi. Sto aspettando la signorina Shirley, spiegò Elizabeth. È andata a cercare la signora Thompson per parlare della cena del comitato di beneficenza. Quando ritorna andremo fino alla fine del mondo. Così? Se hai intenzione di rapirmi, sei avvertito, signor sconosciuto. Già, già, ma intanto mettiti comoda, io farò gli onori di casa. Gradiresti un piccolo rinfresco? Il gatto della signora Thompson deve avere portato qualcosa. Elizabeth si sedette, si sentiva stranamente felice e a proprio agio. Posso ordinare tutto quello che voglio? Ma naturale. Allora, disse Elizabeth con aria trionfale, vorrei del gelato con la marmellata di fragole sopra. L'uomo suonò un campanello e ordinò. Sì, questo era senz'altro il domani. Nell'oggi il gelato con la marmellata di fragole non compariva per magia, e tantomeno ad opera di un gatto. Ne terremo una porzione per la tua signorina Shirley, disse l'uomo. Diventarono subito amici. L'uomo non parlava molto, ma guardava spesso Elizabeth. C'era una tenerezza nell'espressione del suo viso mai vista prima dalla piccola. Nemmeno sul volto della signorina Shirley sentiva di piacergli. E lui le piaceva. Infine, lo sconosciuto lanciò un'occhiata alla finestra e si alzò. Devo andare ora, disse. La tua signorina Shirley sta arrivando, perciò non sarai sola. Non vuole aspettare di conoscere la signorina Shirley? Chiese Elizabeth, leccando sul cucchiaino anche l'ultimo velo di marmellata. La nonna e la donna si sarebbero scandalizzate a morte se l'avessero vista. Non ancora, disse l'uomo. Elizabeth capì che non aveva la minima intenzione di rapirla e provò una stranissima e inspiegabile sensazione di delusione. Arrivederci e grazie, disse educatamente. Si sta molto bene qui nel domani. Domani? Questo è il domani, spiegò Elizabeth. Ho sempre desiderato andare nel domani e ora ci sono andata. Oh, capisco. Beh, a me il domani non interessa granché. Vorrei invece tornare nello ieri. La piccola Elizabeth provò pena per lui. Com'era possibile che non fosse felice? Com'era possibile che non fosse felice lui che viveva nel domani? Elizabeth restò a guardare Flying Cloud con rimpianto durante la breve traversata. Quando fu tra i radi abeti che dividevano la spiaggia dalla strada, si voltò a dare un'ultima occhiata all'isoletta. Una pariglia di cavalli attaccata a un carro infilò al galoppo la curva, sfuggendo al controllo delle redini. Elizabeth sentì l'urlo della signorina Shirley. Capitolo 13. La camera girava in modo strano. I mobili ciondolavano e ballonzolavano. Il letto. Ma com'era arrivata in quel letto? Una donna con una cuffia bianca stava uscendo dalla porta. Ma quale porta? Aveva una grande confusione in testa, sentiva delle voci vicine, voci sommesse, ma non riusciva a vedere chi stesse parlando, però intuiva che erano la signorina Shirley e lo sconosciuto. Cosa stavano dicendo? Elizabeth coglieva delle frasi che spiccavano nell'indistinto mormorio. Ma davvero? La voce della signorina Shirley tradiva l'emozione. Sì, la sua lettera. Vedere con i miei occhi prima di presentarmi a casa della signora Campbell. Flying Cloud è la casa di mare del nostro direttore generale. Se solo quella camera fosse rimasta ferma. Le cose si comportavano in modo davvero strano nel domani. Se solo avesse potuto girare la testa e vedere i due che parlavano. Elizabeth tirò un lungo sospiro. Allora si avvicinarono al letto, la signorina Shirley e lo sconosciuto. La signorina Shirley, alta e bianca come un giglio, con l'aria di chi ha passato un momento terribile, ma radiosa di una luce interiore che sembrava far parte di quella del tramonto di cui a un tratto la camera fu inondata. Lo sconosciuto le sorrise. Elizabeth sentì che le voleva molto bene, sentiva che aveva da rivelarle un dolce e prezioso segreto, ma prima lei doveva imparare la lingua del domani. Stai meglio, tesoro? Disse la signorina Shirley. Perché sono stata male? Sei stata investita da una pariglia di cavalli imbizzarriti sulla strada dell'isola, disse la signorina Shirley. No, non ho fatto in tempo, Alo. Io credevo che fossi morta. Ti ho riportato qui con la barca e tuo. Questo signore ha telefonato al dottore e all'infermiera. Morirò? Chiese la piccola Elizabeth. No, davvero, tesoro. Il colpo ti ha intontita, ma ti riprenderai presto. E mia cara Elizabeth, questo è tuo padre. Il papà è in Francia. Sono in Francia anch'io? Elizabeth non si sarebbe sorpresa di una risposta affermativa. Questo non era forse il domani? E poi le cose non erano ancora del tutto ferme. Il papà è qui con te, tesoro mio. Aveva una voce incantevole, bastava quella per volergli bene. Si chinò e la baciò. Sono venuto a prenderti, non ci separeremo mai più. Sulla soglia c'era di nuovo la donna con la cuffia bianca. Elizabeth intuì che quel che aveva da dire doveva dirlo prima che arrivasse a letto. Vivremo insieme? Sempre, disse il papà. E la nonna e la donna vivranno con noi? No, disse il papà. La luce dorata del tramonto stava scemando e l'infermiera era chiaramente contraria a tanti discorsi, ma Elisabeth non vi fece caso. Ho trovato il domani, disse. Quando l'infermiera fece uscire il papà e la signorina Shirley, ho trovato un tesoro che non sapevo di possedere, disse il papà, mentre l'infermiera chiudeva la porta. E non potrò mai ringraziarla abbastanza per quella lettera, signorina Shirley. E così, scrisse Anna Gilbert quella sera, la strada misteriosa ha condotto la piccola Elisabeth alla felicità e alla fine del suo vecchio mondo.